lernen sie Aschkiok, Aschkiok, Lichiras Rus. Frescher la, et tutto lo giardin adorava de rosa cento pass. Era de maggio, you know, non me ne scordo, una canzone cantava ma due voci. Più tempo passa e più me ne ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce. E diceva cor cor, cor mio, lontano vai, tu me lassi, io conto l'ora, chissà quando tornerai. Rispondeva, torna a raggio, quando tornano le rose, si sto certo torna a maggio, ora maggio sto mca. Si sto certo torna a maggio, ora maggio sto mca. E so tornate mo come una volta, cantammo insieme l'umuti bandini. Passa il tempo e l'umune sa volta, ma amore per no, non vota via. De te bellezza mia, ma innamorai, si tagli cuore, non sa la fontana. L'acqua la dita, no, non si secca mai, è ferita d'amore, non si sa. Dica cor cor cor mi tornati su, torna maggio e torna amore, fatemi che la torna maggio e torna amore, fatemi che la